qualunque sia il tuo domani, non stringerlo così tra le tue mani, qualunque sia il tuo timore, nascondilo se puoi tra i petali di un fiore. Cerca la tua bellezza, la tua libertà, cogli ogni ricchezza che il mondo ti dà. Perché è così che si vive, senza paure né ansietà. È vento del deserto, qualunque sia la tua speranza, l'immensità del cielo è già nella tua stanza. Cerca la tua bellezza, la tua libertà.